Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Ma ora sono felice, sono tanto allegro. Che bello vivere a me. Ed ora sono felice, son contento e i miei giorni ridono con me. In silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Ed ora sono felice, sono tanto allegro. Che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro. Che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono. Non impazzii, né mi successe nulla di altrettanto drammatico, ma sprofondai in una depressione buia, come il mare in una notte senza luna. Divenni ancora più efficiente sul lavoro e quando tornavo a casa la sera mi dedicavo alla lettura di volumi di matematica avanzata e architettura. Volevo tenere la mente occupata con qualcosa di logico, limpido, preciso. Immagini di edifici che si innalzavano da terra come razzi su una rampa di lancio. Andai da un analista che mi disse che ero bella e divertente ed essendo padrona del mio corpo avevo tutto il diritto di abortire. Ma quelle tirate femministe mi lasciarono ancora più triste e insicura di prima. Non volevo essere una donna indipendente, volevo qualcuno da amare ed essere felice della mia vita. Una sera mi resi conto che c'era una sola persona al mondo che poteva comprendere la mia confusione ed era Danny. Così mi sedetti e gli scrissi una lettera di 10 pagine fitte fitte in cui gli parlavo di me, di Peter, dell'aborto e di quello che mi stava succedendo. Ricordo ancora perfettamente il momento in cui, il giorno dopo, all'ufficio postale, dopo averla infilata nella buchetta, chiusi gli occhi e sussurrai «Ti prego, ti prego, ti prego!». Questa era ancora «Ossi di Luna» di Jonathan Carroll. Thank you. early day, what have I done? Oh. Now our hearts are locked up tight again. And when I pray, it's all begun. And when you smile, it melts away again. È la seconda parte di Eclettica, seconda parte che viene onda più o meno fra le 19.30 e le 20 tutti i giorni in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Ecco, questa è la settima settimana della 14ª stagione di Eclettica. In questa nuova stagione si sono aggiunti parecchi nuovi ascoltatori, me l'hanno fatto sapere di essersi aggiunti. E fra le cose che sono state più apprezzate c'è proprio il brano che vi siete appena ascoltati, Melody Day dei Caribou, però nella versione Fortet Remix, che è una versione molto diversa rispetto all'originale estratto dall'ultimo disco di Caribou che ci eravamo ascoltati tanto, tanto spesso nella stagione precedente. E allora faccio una cosa, soprattutto per coloro che ascoltano Eclettica solo da poche settimane e che hanno goduto della Melody Day così lenta. Faccio ascoltare l'originale per capire quanto era bello l'originale e quanto è bravo Fortet a fare un remix. Lander, it's them moccasins. What kind of skins is them? What's that writing mean? Need K. What is that? Some sort of Asian talk or something? Make a living from contract bridge. Boring, but magnificent. Surely you're amazed by it. Suddenly these processes do not seem significant. Now we are not worthy of friends. Una settimana dopo ricevetti un telegramma da Milano. Perché non me l'hai detto subito? La prima cosa che farò sarà rifilarti un pugno sul naso. Arrivo martedì, volo 60 TWA, aeroporto Kennedy. Passai l'intero weekend a correre, fare la spesa, pulire l'appartamento due volte e scrollare la testa, incapace di credere che Danny stesse davvero arrivando. La cosa più inaudita era che veniva perché gli avevo scritto, parlandogli della confusione in cui mi trovavo. Esisteva ancora qualcuno che correva in aiuto di un amico bisognoso di conforto? Riuscivo a stento a trattenermi dal mettermi a saltare come una pazza, al pensiero che Danny lo stesse facendo per me. Sull'autobus per l'aeroporto continuai a lisciare le pieghe del mio vestito nuovo, ripetendo «Volo 60 TWA, volo 60 TWA». L'aereo aveva 45 minuti di ritardo e quando cominciarono a uscire i primi passeggeri, credo fossi andata in bagno almeno tre volte. Aspettai un sacco di tempo, mi alzai in punta di piedi almeno un centinaio di volte per cercare di guardare dentro, prima di vedere quel meraviglioso gigante a me tanto familiare spuntare fuori da uno stuolo di pigmei. Danny si chinò e mi stampò un gran bacio sulle labbra. Aveva il sorriso di chi è seduto accanto al fuoco con il libro più bello che abbia mai letto. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. We'll be right back. Momento delle novità all'interno di Eclettica, dopo che in questa seconda parte ci siamo già ascoltati Caribou, già indicato, ma anche in apertura per esempio i laziali Cuzzo con Ale e poi dopo Caribou Future of the Left con Suddenly It's a Folk Song. È il momento delle novità perché ci siamo appena ascoltati dei Ravionettes che sono usciti con la loro nuova prova discografica che ha per titolo Last, dal quale ci siamo ascoltati il pezzo intitolato Dead Sound. O novità come, e in questo caso è un nome assolutamente sconosciuto, perlomeno a me, pur avendo una storia di 10 anni alle spalle, nome sconosciuto rispetto a quello dei Ravionettes appena ascoltati, della formazione di Chicago denominata The Buddy Revels. I Dream of Rodney è il brano che ci ascoltiamo dal loro ultimo album che è uscito per la Solitaire Records, album intitolato Don't Quit. Slow starts and the best, slower than the me Money Blacksmith. How do you figure? My horse threw a shoe. Seeing as you was the one that done the shoe, and I say that makes you responsible. Well, since you never paid me for the job, I say that makes us even. Wrong! See, I was on my horse when it threw the shoe, and I got thrown off. And that caused me to bust a perfectly good bottle of fine Kentucky Red Eye. So the way I figure it, Blacksmith, you owe me $5 for the whiskey and $75 for the horse. That's $80. Look, if your horse threw a shoe, bring him back and I'll reshoe him. I done shot that horse. Well, that's your problem, Cannon. Wrong. That's yours. So from now on, you better be looking behind you when you walk. Because one day you're going to get a bullet in your back. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 7, volume numero 2, indice, Bit Bit Whisper, Frightened Rabbit, The Magnetic Fields, Saddlefish, Shoo Shoo, Cuzzo, Caribou, Future of the Left, The Ravionettes, The Body Rebels, The Manhattan Love Suicides. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.